Tutti in culo a me, tutti in culo a me, tutti in culo a te, tutti in culo a te, tutti in culo a te, tutti in culo a me, tutti in culo a me, tutti in culo a te, tutti in culo a te, tutti in culo a te. Sono una puttana. Primavera, gli ormoni di già. Vuoi sempre scopar, tu sei una puttana. Pensa a te, mangia cazzo. Parli proprio tu col culo squartato. Io mi faccio bonazzi, non come te. Sei una stronza bugiarda, scuffi la cazzo. Ho la figa più bella di quella che hai tu. E anche sfondata non l'ho scordata. E anche sfondata non l'ho scordata. Tutto in culo a me, tutto in culo a me. Tutto in culo a te, tutto in culo a te. Tutto in culo a te. Tutto in culo a me, tutto in culo a me. Tutto in culo a te, tutto in culo a te. Tutto in culo a te. Sono una puttana. Ah, ah, sei una puttana. Tutto in culo a me, tutto in culo a te. Tutto in culo a me, tutto in culo a te. Tutto in culo a me. C'è chi nasce cessa come te e che invece è perfetta come me. Amanti bonazzi, ne ho da buttar con un bel cazzo, pronti a sfondar. Minchiona, stai zitta, sempre a sparlar. Sei una vecchia zitella e anche acida. 100 cazzi in culo, devi pigliar. Tutti insieme però ti devo spaccare. Tutto in culo a me, tutto in culo a me. Tutto in culo a te, tutto in culo a te. Tutto in culo a me, tutto in culo a me. Tutto in culo a te, tutto in culo a te. Tutto in culo a te. Sono una puttana. Ah, ah, sei una puttana. Tutto in culo a me, tutto in culo a te. Tutto in culo a me, tutto in culo a te. Tutto in culo a me, tutto in culo a te. Tutto in culo a me. Ieri senti a me. Vatti a bruciar, sei una puttana. Troia, hai rotto il cazzo, mi fa ciò che mi va. Sì, sono una puttana. Tutto in culo a me, tutto in culo a me. Tutto in culo a te, tutto in culo a te. Tutto in culo a te. Tutto in culo a me, tutto in culo a me. Tutto in culo a te, tutto in culo a te. Tutto in culo a te. Sono una puttana. Ah, ah, sei una puttana. Tutto in culo a me, tutto in culo a te.